Ecco, noi Giovanni Troilo, regista del documentario Cherop, che sarà programmato all'Apollo 11 a Roma il prossimo 4 aprile. Giovanni, benvenuto. Grazie mille, ciao a tutti. Lo raccontiamo in sintesi? Allora, il film documentario racconta sostanzialmente di una città che è Charleroi, una città molto vicina a Bruxelles, che conosce, insomma, una fase post-industriale abbastanza peculiare e che per quanto mi riguarda, insomma, poteva essere così una sorta di metafora per l'Europa intera, per questa, insomma, sua fase post-industriale che vive e si accinge a vivere. Charleroi è un posto che sostanzialmente è stato costruito artificialmente, che nasce proprio con i minatori giunti lì per lavorare nelle mine di carbone, una comunità italiana molto molto grande. A Charleroi, per esempio, uno dei microcomuni di Charleroi è Marcinelle, nota per la strage appunto di Marcinelle. La mia famiglia si trasferì lì per viverci, per lavorare, per viverci appunto proprio a ridosso della strage di Marcinelle, e ancora oggi vivono molti dei miei parenti lì, e visitandoli molto spesso ho avuto la sensazione chiara che fosse un posto da raccontare. Ho cercato di raccontare attraverso le molteplici storie di molti personaggi più o meno bizzarri che popolano la città. Senti, partiamo subito da questa immigrazione massiva. Ecco, che equilibri si sono creati in un luogo del genere? Più che equilibri sono una forma di disequilibri in equilibrio, ecco, nel senso che non c'è mai stata come dire, una vera progettualità anche politica di integrazione, di costruzione di identità comune, e l'unica vera identità è essere arrivati lì per lavorare prima nelle miniere e poi nelle fabbriche. C'è proprio una sorta di stratificazione anche così per paesi di migranti giunti lì per questo. Senti, com'è nata il progetto? Allora, il progetto nasce proprio da questo, dal fatto di avere lì una parte delle mie radici, della voglia di scoprirle di più, di raccontarle, e nel farlo imbattersi in delle storie molto, molto forti, molto potenti, che insomma riguardano anche l'Italia nel profondo. Le stesse, insomma, ondate migratorie furono la conseguenza di un accordo italo-belga per il carbone sottoscritto proprio da De Gasperi, che prevedeva l'invio quasi di schiavi, di 50.000 italiani schiavi, anzi lì per lavorare nelle miniere. E poi appunto, conoscendo, all'inizio c'è stato un lungo progetto fotografico, e conoscendo una serie di storie più o meno rocambolesche, ho deciso di farne un documentario. Senti, questo titolo che richiami evoca? Beh, sostanzialmente Cherop è un po' la crasi di cuore di Europa, quindi di un posto appunto che da solo può simboleggiare questo cuore, è un po' malato di un'Europa senza una grande identità comune. Questo. Senti, la curiosità adesso è rispetto a due temi centrali appunto in tempo di crisi, ossia le prospettive dei giovani, dei più giovani e le condizioni lavorative. Quali opportunità ci sono di un lavoro o comunque di una forma di reddito? Allora, quello che mi ha sorpreso molto, venendo appunto dall'Italia, è di questa veramente pioggia di sussidi disoccupazione che vengono erogati lì da decenni, e che da un lato ovviamente sono una cosa meravigliosa e bellissima di sostegno per l'occupazione, però quando non sono accompagnati poi da delle politiche precise, diventano semplicemente così, sono un piccolo anestetico per la società. E devo dire che negli ultimi pochissimi anni si assiste finalmente ad una sorta di risveglio culturale, la città riprende a muoversi, e per me costituisce, così almeno simbolicamente, lo penso anche all'inizio del film, come una sorta di brodo primordiale dal quale magari potrà risorgere, insomma, l'idea di un'identità europea. C'è un fenomeno di immigrazione al contrario ora? Sì, cioè, molti vanno via da Charleroi, alcuni tornano nei paesi di origine, però molti altri in realtà si dirigono verso luoghi un pochino più felici dell'Europa, a partire probabilmente dalla stessa Bruxelles. Senti Giovanni, che percorso sta facendo il tuo lavoro? Allora, questo lavoro qui è stato selezionato, insomma, in prima battuta all'IPFA, che è un po', insomma, il premio più prestigioso per i documentari. Da lì poi è stato distribuito su Rai 3, nella sezione Doc 3, che ha cofinanziato il progetto, e dopodiché è stato presentato al Biografilm a Bologna, e dopodiché ancora è stato poi distribuito in Francia e Germania grazie ad Arte. Adesso appunto a Roma si tratta della prima tappa al cinema, e insomma di qui sarebbe bello avere una serie, insomma, di appuntamenti di questo tipo in giro per l'Italia. Ecco, proprio a questo proposito, per seguire le tappe, ci lasci tutti i riferimenti web? Assolutamente, c'è una pagina, che è una pagina Coeurope, si scrive Coeurope, e nella quale, insomma, pubblichiamo, insomma, aggiornate la lista delle proiezioni. Benissimo, ricordiamo l'appuntamento a Roma all'Apollo 11 il 4 aprile con Cherop di Giovanni Troilo. Giovanni, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie mille, alla prossima, ciao!